Welcome administrator, medium is ready to check in. C'è qualcuno? Ehi? Ok. Ragazzi, forse ce l'ho fatta. Sono solo. Non c'è nessuno dentro Medium. Cioè, ci sono solo io. Sono Federico. Non c'è il Raffo. Non c'è Federico Spada. Non c'è il duo. Mi sa che sono andati via. Sospetto che torneranno. Ragazzi, questa è la stagione 2 di Medium. Partiamo col piede giusto. Una bella canzone come solo chi ama Netrunner sa fare. Abbiamo appena ascoltato Buffalo, la canzone si chiama Anarchs e viene dall'album The Runner Faction. Fondamentalmente questo ragazzo si è messo lì a fare tre canzoni, una per gli Anarchs, una per i Criminal e una per gli Shaper, quindi tre canzoni chiaramente, come avete sentito, elettroniche, ispirate a Netrunner. Posso solo ringraziare Buffalo per questa iniziativa, l'ho sentito via email, è stato entusiastissimo di darmi la disponibilità per poter utilizzare queste canzoni all'interno del podcast, e lo ringraziamo ancora tutti quanti. Poi chiaramente avrete il link per poter acquistare le canzoni con una donazione, quindi non è obbligatorio spendere chissà che, ognuno mette quello che pensa che valga la canzone. Potrete acquistare o l'album intero oppure le singole canzoni una alla volta. Passiamo subito alla parte interessante di questo medium, ovvero a una analisi del nuovo datapack che uscirà, anzi in realtà è già uscito, che tra poco sarà disponibile per i tornei, ovvero The Spaces Between. Io non vorrei andare a parlare di tutte le carte una a una perché fondamentalmente arrivo un pochettino tardi rispetto agli altri che hanno già fatto delle dovute e fatte bene analisi, quindi vorrei parlare solamente di quello che secondo me verrà giocato. Allora, The Foundry, ID solamente for fun secondo me, molti proveranno a fare dei massi combo, non li verranno e quindi non ne parliamo. Enhanced Login Protocol, sgravata, costa 2, è un'operation, tutte le volte che ogni turno il runner se fa una run, come dire, una run senza l'utilizzo di carte, deve per forza spendere due click invece che uno per fare la sua prima run senza l'utilizzo di carte. Questa è veramente pesa, soprattutto per RP. Ed è pesa soprattutto perché non è un asset, non è un upgrade, non è niente, è proprio un evento che rimane lì e aspetta semplicemente un altro evento current per essere scartato. Quindi, o il runner, anche lui gioca delle carte current, oppure riesce a rubare un'agenda per far scartare questa condizione che c'è al momento. Sarà pesante, insomma, chiaramente questo probabilmente porterà a giocare molti eventi run. Island Grid non verrà giocato. Siete liberi di smentirmi, ma secondo me non verrà giocato. Encrypted Portals potrebbe essere giocato perché comunque è una di quelle agende, una 3-1, che è esattamente Infection, cioè è un'agenda Jinteki, che è veramente come dire, la fazione dei Codegate, quindi probabilmente potremmo vederla giocata. Cerebral Static, molto bella, mi piace molto il fatto che tolga l'identità, ma probabilmente non verrà giocata. Targeted Marketing verrà molto giocata a mio parere. È un'operazione current, costa 0, quindi primo turno senza nessun problema. E sicuramente verrà giocata perché tu nomini una carta che sai per forza che sarà all'interno del mazzo runner, tipo che ne so, Sure Gamble, oppure se giochi contro Criminal, che ne so, Account Siphon, e vai sul sicuro che quella carta lì non verrà giocata fino a che quella current non verrà distrutta. Quindi sono sicuro che vedrà la luce nei mazzi NBN. Information Overload, Ice combo che tutti si faranno il trip mentale di Mid-Season Replacement, ma alla fine non funzionerà. Paywall Implementation non è male, è da capire, forse qualcuno l'ha già chiesto e è già stato risposto, forse non sono sufficientemente dotto di Netrunner per capirlo per i fatti miei, se ottenere uno tutte le volte che il runner fa un successo, siccome questo è un effetto che viene da una transaction, se l'ID base ti dà il soldino in più oppure no. Secondo me sì, ne parliamo magari sul sito. Sealed Vault, hard counter ad Account Siphon, visto che Account Siphon sta perdendo un pochettino piede rispetto a un paio di mesi fa, probabilmente non verrà giocato. Questa è la mia previsione. E Eden Fragment ignora tutti i costi di installazione degli ICE per il primo ICE che installi. È una 5-3, no, non verrà giocata. Lag Time, oh, Lag Time è una current neutra, secondo me in HB potrebbe vedere la luce, nel senso che comunque sposta un pochettino gli equilibri del runner che probabilmente pensava magari di riuscire a entrare con un tot di soldi e dopo che hai giocato lag time deve un po' riorganizzare la sua economia per capire se entrare oppure no nei posti, perché gli hai alzato di uno tutti gli ice, che in un mazzo HB dove già gli ice sono molto alti come forza, invita molto al passare attraverso gli ice con i click e non con gli icebreaker. Ultimo della serie della corporazione, Will o' the Wisp. Ne abbiamo parlato molto perché è uno spoiler che è uscito da tanto tempo. Secondo me verrà giocato. Non mi piace molto il discorso che te lo metti in fondo al mazzo invece che un classico trash program come si sarebbe potuto aspettare. Una specie di trappola, una specie di difesa, perché anche se te lo rezzo, comunque tu sai che lì in fondo sai che dovrai in un certo senso trashare un programma, quindi un deterrente notevole, ed è un po' l'anti-clone chip, cioè Shaper se ne sarebbe sbattuto se avesse scritto trash program. In questa maniera qui te lo devi andare a riprendere con SMC oppure con Test Run, e quindi diventa un pochettino più forte rispetto anche a uno Shaper che avrebbe potuto ignorare la cosa. Bene, siamo arrivati in fondo a The Spaces Between, la parte della Corp. Adesso ci ascoltiamo il brano Criminal, sempre dall'album The Runner Faction, e dopo chiaramente parliamo anche delle carte di The Spaces Between, dei runner. Buon ascolto. E dopo aver ascoltato Criminal passiamo alle carte Runner, ma con la fazione subito degli Anark. Qui andiamo a parlare di David, o io lo chiamo David e non D4V1D perché tutti lo chiamano David. È un programma interessante perché comunque ha una meccanica che non avevamo ancora mai visto, ovvero del Forza 5+. Che cos'è? È un programma, non è un icebreaker. Quando lo giochi ci metti tre power counter. E rimuovendo un power counter rompi una subroutine di un ICE che ha 5 o più di forza. Questo 5 o più è molto interessante, nel senso che non mi importa quanto abbia di forza, può essere anche Mohammed ti spacco il culo Bruce Lee, ma tanto se c'ha più di forza, se più di 5 di forza, anzi 5 o più di forza, io comunque lo riesco a rompere, quindi rompe un pochettino quello che può essere tutto il modo di pensare, gli icebreaker, il modo di pensare come si rompono gli ice grandi, quindi l'idea in generale è che ad ice grande ci vuole spesa grande per poterlo rompere. Non a caso questo David l'hanno fatto programma, forse anche perché non volevano che fosse tutorabile, quindi hanno provato a dargli forse un po' meno forza, non includendolo all'interno degli icebreaker. Passiamo alle altre carte. Allora, Scrubbed è l'evento Anark current di questo datapack. Ma io passerei subito perché comunque dice il primo ice che incontri ogni turno ha un meno 2 di forza. Non verrà giocato, ve lo dico già, a meno che, boh, non so, mazzi particolari tipo mazzi Parasite, Recursion, potrebbero vederlo giocato forse in una o due copie. Non lo so, secondo me non verrà tanto giocato, però insomma, il meta è libero di smentirmi. Three Steps Ahead è un evento priorità, ecco questa è una nuova tipologia che vediamo, questa volta è proprio un evento, non è una current, non a caso si chiama priorità perché può essere giocato solamente come primo click, quindi fondamentalmente ha una forma di limitazione, in primo se hai in mano due carte priorità sai che ne potrai giocare solamente una delle due, in secondo luogo comunque ti obbliga a organizzarti un pochettino il turno in maniera forzata perché sai che quella lì sarà la prima che giocherai. Non è male, che cosa fa? Costa 1, lo giochi come primo click. E quando il turno è finito, ottieni 2 per ogni run di successo che hai fatto in questo turno. Fondamentalmente, tutti quei mazzi che tendono a, usando un termine molto baralaico, a comprimere all'interno di una run una serie di effetti, come per esempio John Masanori pesca una carta, Data Sucker che ti mette il token, prendi un soldo da Desperado. Quindi tutta questa serie di cose che avvengono a una successful run. Vengono ancora più compresse se giochiamo questa 3 steps ahead, che potrà voler dire che spendo completamente un turno per fare 4 run, 3 run sugli archivi, perché magari gli archivi sono completamente liberi, oppure ci possono essere delle simpatiche. Che ne so, un mazzo che gioca questo è anche Doppelganger, quindi se il mazzo gioca già di suo il Doppelganger, questa carta può essere anche un pochettino più forte perché ti dà quell'ulteriore successful run che potrebbe fare la differenza fra magari una carta insomma, che a costo 1 ti dà 6 e una carta che a costo 1 ti dà 8, insomma fa una certa differenza. Secondo me la vedremo. Unscheduled Maintenance, questa carta non verrà giocata, non vi spiego nemmeno perché, andatevela a vedere. Oh, poi arriviamo al pezzo forte, un programma Criminal che però vedremo nei mazzi Noise, ovvero Cash. Ne abbiamo parlato parecchio perché effettivamente sposta abbastanza l'economia di Noise, il quale gioca Cash probabilmente con un virus counter in più sopra, perché quando lo giochi è un programma, ci metti tre virus counter sopra, quindi essendo un virus con Grimorio lo andiamo ad aggiungere un ulteriore virus counter, e l'abilità è semplicemente togli un virus counter e fai un soldo. Quindi di suo, se non fosse un virus, sarebbe spendi uno per installare un programma e ottieni tre, quindi hai un net di due. Però nel momento in cui quell'uno che spendi lo prendi da Cyberfeeder, ci metti un soldino in più perché ci metti un virus in più perché c'è Grimorio a tavola, e in più al turno dopo, quindi già ci fai a spendi zero perché lo paghi con Cyberfeeder, e ci metti 4 virus counter, e quindi ci fai 4 soldi, e in più il turno dopo lo sacrifichi a Aesop Pawn Shop, insomma è un net notevole, perché da un net di 2 arriviamo fino a un net di 6, in più abbiamo giocato un virus, e quindi Noise è contento perché ti ha trasciato anche una carta. Poi Net Celebrity, questa carta è una current, forse vedrà il gioco, vedrà, comunque potrebbe essere giocata, costa 1 da giocare e ti dà un credito ricorrente da usare durante le run. Abbastanza generico come credito ricorrente, nel senso che lo puoi usare in tante salse, tipo per installare programmi durante la run con gli SMC e i clone chip, da usare con i breaker, per trasciare le cose che incontri, quindi è molto versatile. Però un creditino, sei sicuro che non potrai mai avere più di una current in gioco, quindi non è che dici ah cacchio, quando metto giù 3 Net Celebrity mi svolta la vita. No, perché se metti la prima poi strasci se metti la seconda trasci la prima, quindi insomma non lo so, secondo me potrà essere visto in una o in due copie, forse anche per neutralizzare le current dell'avversario e avere un piccolo vantaggio nel momento in cui la cali giù. Costa 1, quindi si potrebbe anche fare. LLDS Energy Regulator non verrà giocata, a meno che non ci sia qualche hardware assolutamente fondamentale da salvare. E poi c'è una bella risorsa, Stealth, che quindi va in sinergia con tutte gli Icebreaker che hanno bisogno di crediti Stealth per potersi muovere, che è Ghost Runner, una carta neutrale che non ha punti influenza da farti spendere, e costa 1 e ci metti 3 soldini sopra, e siccome e dice semplicemente puoi usare questi crediti durante una run. Siccome è però una risorsa stealth, questi 3 crediti sono 3 crediti molto importanti, perché vanno ad alimentare tutti gli attuali Icebreaker stealth che esistono, e quindi magari potrebbero aprire un nuovo archetipo, l'archetipo stealth, io me lo auguro. Con quest'ultima carta abbiamo completato The Spaces Between in toto, e quindi, visto che vi ho fatto ascoltare la canzone degli Anarch all'inizio, la canzone dei Criminal in mezzo, chiaramente adesso ci ascoltiamo la canzone degli Shaper. E con Shaper concludiamo la puntata di Medium, la prima della seconda stagione. Un saluto da Federico e alla prossima. Seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.